24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Frattini attacca asse Merkel-Sarkozy, Berlino e Parigi rispondono a tono. I ministri degli esteri europei condannano la violenza in Egitto, 100.000 copti sarebbero già in fuga. Giornata mondiale contro la pena di morte, la Bielorussia è l'unico paese in Europa e nell'ex Unione Sovietica che ancora l'applica. Bentrovati da Roberta Pellegatta ad una nuova edizione di 24 ore in Europa. Nuovo sciopero ieri in Grecia, mentre sono in corso i negoziati per lo sblocco della nuova tranche di aiuti. Intanto passa da Parigi e Berlino la via di un nuovo piano anticrisi per l'Europa da presentare prima del G20 entro fine ottobre. Nicolas Sarkozy e Angela Merkel hanno già trovato un accordo in un vertice bilaterale. Tre punti fondamentali: ricapitalizzare le banche, difendere l'euro ad ogni costo e tenere la Grecia nell'Unione Europea. E ieri il ministro degli esteri italiano Franco Frattini ha attaccato quello che ha definito un asse franco-tedesco. Parigi e Berlino hanno risposto. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Uno scontro senza precedenti. Il ministro degli esteri Franco Frattini parte all'attacco nervosito dai bilaterali Germania-Francia, soprattutto come quello di ieri tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. Secondo Frattini, una situazione di crisi globale non si risolve con gli assi bilaterali. Non siamo riusciti a comprendere quale sia stato il succo, non c'era un'agenda dichiarata e non sappiamo neanche se c'era un'agenda sostanziale. Sarebbe meglio, precisa il nostro ministro degli esteri, rilanciare un metodo comunitario che faccia sedere tutti i paesi membri intorno al tavolo del Consiglio, senza perdere tempo, rischiando di far fallire la Grecia. Replicano tono su tono Parigi e Berlino. Per l'Eliseo la Francia e la Germania non hanno nessuna vocazione di essere il direttorio dell'Unione e non agiscono contro gli altri stati membri. Diverso il parere del governo tedesco. Germania e Francia sono economie nazionali più grandi dell'Eurozona e hanno responsabilità particolari per il futuro dell'Europa e della moneta unica. E per il momento qui da Roma tutto per studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E l'accordo tra Angela Merkel e Nicolas Sarkozy per ricapitalizzare le banche e dare risposte concrete alla crisi europea entro novembre ha innescato una ventata di ottimismo sui listini. Gli indici delle principali borse europee hanno chiuso la seduta in forte rialzo in sintonia con l'andamento di Wall Street. Francoforte ha guadagnato il 3,02%, Parigi il 2,13%, Londra l'1,80%. A Milano il FTSE MIB ha chiuso in rialzo del 3,67%. L'accordo tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy per ricapitalizzare le banche e dare risposte concrete alla crisi europea entro novembre ha innescato una ventata di ottimismo sui listini del vecchio continente. Piazza Affari ha vantato la performance migliore con il FTSE MIB che ha chiuso in progresso del 3,67%. Francoforte inoltre ha guadagnato il 3%, Parigi il 2,13% e Londra l'1,8%. Milano ha beneficiato della performance dei titoli bancari, soprattutto di Intesa San Paolo più 5,7% e Unicredit. Quest'ultima si è infiammata addirittura del 12%, merito anche del direttore generale Roberto Nicastro, che ha escluso che l'istituto possa avere problemi nell'est Europa, sulla falsariga della banca austriaca Erste, costretta invece a pesanti svalutazioni in Ungheria e Romania. Sono inoltre state gettonate le Fiat più 6,2% e le Fiat Industrial più 3,5%. Quest'ultime, nonostante la concorrente svedese Scania abbia annunciato che taglierà la produzione di camion in Europa tra il 10 e il 15% già a partire da novembre, a seguito dell'andamento debole della domanda. Tra le azioni fuori dal paniere principale sono crollate del 38% le Archimedica, visto che la società chiederà l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per contro sono volate del 28% le TXT, festeggiando la proposta di distribuire un dividendo straordinario da 4 euro per azione. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 Il Sole 24 Ore. Raggiunta intanto anche un'intesa con Francia e Lussemburgo per il salvataggio del gruppo bancario assicurativo Dexia, il Belgio si è offerto di assumere interamente il controllo della filiale belga con un esborso di 4 miliardi di euro. E i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno in modo univoco espresso una forte condanna delle violenze esplose in Egitto. L'ultimo bilancio ufficiale è di 25 vittime, anche se fonti copte parlano di almeno 36 morti. Oltre 200 i feriti, mentre sono 40 gli arresti seguiti alle violenze dell'altra notte al Cairo tra cristiani copti e forze dell'ordine. Il primo ministro Essam Sharaf, che era apparso in TV per lanciare un appello alla calma, ha convocato una riunione d'emergenza del governo, mentre il consiglio militare, che sostituisce il deposto Mubarak, ha chiesto la creazione di una commissione d'inchiesta per individuare i responsabili.

In chiusura lo sport. Con uno così possiamo scalare le montagne. Lo ha detto il CT Prandelli a proposito del fantasista del Parma Giovinco, che oggi sarà titolare nella sfida tra Italia e Irlanda del Nord a Pescara e valida per Euro 2012, con gli azzurri che, reduci dal pari di Belgrado, hanno già da tempo ottenuto la qualificazione. Ma sentiamo Prandelli proprio su Giovinco. Seba sta iniziando un campionato benissimo, sta veramente, secondo me, crescendo bene sotto tanti punti di vista. E quindi sta lavorando proprio per, così, per completarsi da un punto di vista proprio come attaccante. Così mi sembra giusto non solo premiarlo, perché ovviamente non è che premio nessuno, ma se lo sta meritando. E poi voglio capire dove possiamo veramente andare e migliorare da un punto di vista proprio degli attaccanti. Sempre nel gruppo C, in campo anche Slovenia-Serbia. Tra le altre gare di stasera, l'Irlanda di Trapattoni si gioca l'accesso agli spareggi contro l'Armenia a Dublino, la Francia ospita la Bosnia. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.